Allora, Chiara Crivelli, mi sembra di capire che poi il mese più critico sia quello di agosto, perché in qualche modo a luglio o si punta sulla scuola o comunque si trovano dei modi, anche in collaborazione con appunto associazioni oratori per far sì che questi ragazzi possano, vivere delle giornate intense sia dal punto di vista educativo che da quello sportivo. Mi sembra che su agosto invece la situazione sia un po' più difficile, un po' ovunque. Sì, è così. Tante esperienze di Grest estivi proseguono anche per agosto. Spesso le iniziative per agosto sono più relative ai campi, cioè alle Alle vacanze vacanze, sì. in montagna, ai campi scuola, delle parrocchie, degli scout, anche di associazioni appunto che scelgono di trascorrere insieme le vacanze, per esempio tante AGE propongono le vacanze in famiglia, insieme, famiglie intere, per cui anche l'accudimento dei piccoli fa parte di tutto, di tutte le attività della vacanza insieme. Comunque è vero, tanti comuni comunque tengono aperti gli asili nido e le scuole materne comunali, le scuole d'infanzia Sì. comunali anche, e i centri estivi, ricreativi per i bambini fino alla terza media anche durante il mese di agosto.